La caccia ai ceceni in mezza Europa, la storia di un combattente di MMA palestinese, l'intervista esclusiva al presidente del Parlamento libico. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano, di Giampaolo Musumeci. Tumso Abdurakhmanov is an online sensation, but offline he fears for his life. It's virtually impossible for customers to travel across the front lines of fighting in the suburbs to get to Tripoli. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, 16.09 minuti in questo esatto istante, con me tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano che vi porge i suoi saluti: Antonio Tali, Ilaria Sesana, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro e Valeria Bernardi che è in regia. 349-238-6666 per sms e whatsapp, per domande, commenti e perché no, anche critiche. Tre le pagine di Nessun Luogo Lontano che vi proponiamo in questa puntata. Da un lato ancora un tentativo di assassinio, di omicidio di un dissidente ceceno, sempre in Europa, questa volta in una non meglio precisata località polacca, dove un noto blogger ceceno si nascondeva in attesa della sua richiesta di asilo. Ne parlammo qualche mese fa, c'è una vera e propria caccia all'uomo, soprattutto quei blogger, quegli intellettuali o quelle persone politicamente esposti che tanto fastidio danno al regime ceceno e di riflesso anche a Mosca, Vladimir Putin. Poi la seconda pagina di Nessun Luogo, una storia metrata a politica internazionale e sport, con l'intervista, la voce di Matthew Cassell, che è un grande documentarista americano che ha raccontato per BBC Arabic, il canale appunto della BBC in lingua araba, la storia di un MMA fighter, cioè un combattente di arti marziali miste che lotta e sale sul ring ottenendo anche grandissimi risultati e rivendicando sempre comunque quella che è la sua origine palestinese e la causa palestinese. Infine, in esclusiva Nessun Luogo Lontano, l'intervista del neo eletto presidente Siala, presidente del Parlamento libico di Tripoli. I commenti su questi tre grandi temi anche su Facebook Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, su Twitter Nessun Luogo 24, ovvero già Ampaz. Detto ciò, la prima cosa che facciamo anche quest'oggi è misurare la temperatura. La prima notizia del nostro termometro internazionale ci riporta in Siria, in particolare nella provincia di Idlib, dove da settimane vanno avanti i combattimenti. Lo raccontiamo spesso, c'è un doppio piano di questa lunga battaglia per Idlib, per la provincia e per la città di Idlib. Da un lato quello che accade sul terreno con l'avanzata delle truppe di Assad di Damasco con il supporto aereo dei russi, dall'altra parte quello che resta di una varia compagine di ribelli siriani ma anche di società civile, di civili intrappolati appunto a Idlib, con i turchi che si sono schierati ormai proprio sulla linea del fronte, turchi che continuano molto di sovente a pagare un altissimo prezzo per questa presenza di Ankara in territorio siriano, tanto che nelle ultime ore Erdogan ha dovuto annunciare e confermare che sono stati uccisi altri tre soldati turchi appunto durante questa lunga battaglia di Idlib. Erdogan non ha mancato di utilizzare un lessico particolarmente roboante, chiamando i tre soldati morti martiri, ma ha anche sottolineato, e il campo fino adesso gli ha dato ragione, che la reazione da parte di Ankara è stata molto violenta, con perdite dall'altra parte decisamente superiori. Allo stesso tempo, e qua veniamo al secondo piano di questa complessa vicenda che accade in Siria, proseguono i negoziati, i colloqui con chi? Beh, ovviamente con Mosca, con Vladimir Putin, perché le due potenze regionali da un lato si fronteggiano in alcuni teatri, dall'altro hanno un rapporto ormai abbastanza consolidato, non soltanto di amicizia ma anche, e lo ripetiamo spesso, vendita per esempio di armi, la famosa batteria missilistica S-400. Sentite intanto, e lo diciamo da ultimo ma non per importanza, quello che è un grido di allarme che arriva da un chirurgo siriano che lavora per Medici Senza Frontiere, che si trova lì a operare in piena emergenza sotto le bombe di Idlib. Il sabato, Le patologie che il medico chirurgo è costretto a affrontare sono ovviamente tutti traumi da bombardamento, quindi amputazioni, ferite neurologiche. La metà dei suoi pazienti erano donne e bambini. In città, racconta, nelle ultime ore la situazione era fuori controllo con i suoni dei bombardamenti e quelli delle sirene. Le persone sono andate nel panico, ha continuato il chirurgo siriano. È stata anche quest'oggi una difficile giornata di sangue. Seconda e ultima notizia del nostro termometro internazionale, ve lo ricordo, sono quei fatti, quelle notizie che accendono la nostra attenzione, che continuiamo a monitorare da tempo e che diventeranno molto ragionevolmente approfondimenti di Nessun Luogo Lontano da qui alle prossime settimane. Vi abbiamo raccontato proprio di recente, in realtà l'ultimo atto è stata proprio la puntata di ieri, delle varie proteste che sono avvenute in tanti teatri nel mondo, da Hong Kong fino al Cile. Appunto in Cile, dove vi era stato quasi un rigurgito della storia, con la polizia che sparava sui manifestanti, con quei carri armati che non si vedevano dai tempi di Pinochet, ebbene, le piazze hanno ottenuto una prima vittoria perché si è aperta la campagna elettorale in vista di che cosa? Di un referendum costituzionale che dovrebbe tenersi il 26 aprile. E sarà, potrebbe essere una data storica, perché per la prima volta quella costituzione ereditata dal regime di Pinochet potrebbe essere non solo messa in discussione, ma addirittura riscritta. Allora, 349-238-6666 per i vostri commenti e le vostre domande. Il termometro si chiude qui. La prima storia di quest'oggi ci porta in Polonia. Mi disse, se continui così ti porto da Ramzan Kadyrov e se lui mi dice di ucciderti, ti uccido. Se mi dice di metterti in galera, ti metto in galera. Se mi dice di lasciarti andare, ti lascio andare. La voce che avete sentito è quella di Tunso Abdurakhmanov. Il nome forse non vi dirà moltissimo. Detto ciò, è un blogger ceceno che sta, o meglio stava fino alla giornata di ieri, probabilmente adesso è stato anche spostato, in una non meglio precisata località della Polonia. Proprio ieri il blogger ceceno, lui che da a distanza continua a tuonare sul regime di Ramzan Kadyrov, il primo ministro della Cecenia, proprio ieri ha postato un video che difficilmente troverete su YouTube, è più facile da trovare sui canali Telegram, in particolare se digitate in cirillico quello che è il nome di questo blogger, troverete un video selfie postato dallo stesso blogger che mostra se stesso è un assalitore pochi istanti dopo questo, quello che sembra a tutti gli effetti un tentativo di omicidio. L'assalitore è a terra in una pozza di sangue, Tumso Abdurakhmanov ha ancora il martello in mano e cerca di tirar fuori dalla bocca del suo assalitore alcune informazioni. Nel dialogo piuttosto concitato e ripreso dallo stesso Tumso, da questo blogger, l'assalitore che è a terra risponde, dice che è stato mandato da Grozny, che lui è russo, che voleva soltanto spaventarlo ma non voleva ucciderlo. Allora Tumso lo incalza, ma volevi spaventarmi con un martello in mano? E lui dice sì, e alla fine gli strappa un ultimo indizio, un ultimo particolare che potrebbe essere illuminante anche per ricostruire la dinamica di questo assalto, di questo attacco. L'assalitore dice, per favore, in nome di Dio, non mi fare nulla, hanno mia madre, lasciando intendere che fosse sotto scacco, praticamente ostaggio nelle mani dei mandanti che avrebbero, secondo le sue parole, rapito la madre e costretto a rintracciare in un luogo che nessuno avrebbe dovuto sapere il dissidente ceceno. Questo è l'ultimo capitolo di una storia che dura da parecchi anni. Chi ci segue negli ultimi mesi si ricorderà di quell'altro omicidio a sangue freddo compiuto in un parco nel pieno centro di Berlino. Era agosto, inaspettato, lì, nel cuore dell'Europa. Anche lì un dissidente ceceno messo nel mirino di chi? Questo ovviamente, su questo punto si possono fare solamente illazioni. Proviamo però a ricostruire quella che è stata una lunga scia di sangue, una lunga serie di o omicidi a sangue freddo o tentati omicidi. Nel mirino ci sono sempre loro, la diaspora cecena dissidente in Europa. Chi ti ha prestato? Chi ti ha prestato? La voce che avete appena sentito è quella di Tumso Abdurakhmanov, sopravvissuto a un tentato omicidio in Polonia. Il suo è solo l'ultimo caso di una lunga serie di sangue che la diaspora cecena e diverse autorità di polizia attribuiscono al presidente ceceno Ramzan Kadyrov e al Cremlino. The victim was this man, Sulim Yamadayev, a decorated commander of an elite Chechen battalion controlled directly by Moscow. Nel 2009, Sulim Yamadayev, ex comandante militare, viene raggiunto da un sicario a Dubai, dopo che suo fratello era stato assassinato pochi mesi prima a Mosca. Said Emin Ibrahimov doesn't come alone to the river Ill near Strasbourg to fish anymore. Last August, two men attacked him here. And it's a miracle that he lived to tell the story. Nel 2014, Said Emin Ibrahimov, un ex ufficiale ceceno separatista, denuncia di essere stato rapito e torturato dai servizi segreti russi a Strasburgo. Germany has expelled two Russian diplomats over the brazen killing of a Georgian citizen in Berlin. A Berlino nel 2019, Zelimkan Kangoshvili viene ucciso con due colpi di pistola alla nuca, dopo essere scampato a un duplice tentato omicidio in Georgia e in Ucraina. Negli ultimi 10 anni in Turchia sono stati contati una mezza dozzina di omicidi di esuli ceceni. Questa è la catena di accadimenti che abbiamo provato a ricostruire, non ci sono tutti, ci sono quelli più eclatanti. Mi permetto di sottolineare un paio di aspetti. Alcuni dei ceceni che sono stati uccisi erano richiedenti asilo. Secondo aspetto, erano quasi tutti in Europa, cioè nel cuore della nostra Europa. E se fossero confermate le voci, i sospetti, come già dicemmo qualche tempo fa, c'è un team o più team di killer ceceni o russi o filorussi che si aggirano per l'Europa per eliminare la dissidenza. Che cosa c'è dietro a tutto questo? Proviamo a chiederlo a Giorgio Cella, che è un ricercatore esperto dell'area ex sovietica all'Università Cattolica di Milano e analista per la Nauto Foundation. Lo potete leggere anche su Limes. Giorgio Cella, buongiorno e benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno, grazie. Allora, abbiamo provato a raccontare l'ultimo capitolo di una storia che dura da parecchio tempo. Perché il premier ceceno Kadyrov vuole eliminare qualsiasi traccia di opposizione, se fosse vero che il mandante morale, diciamo, di tutte queste esecuzioni o tentate esecuzioni è lui? Sì, allora, in primis, riguardo al video di cui avete parlato, al film di questo tentato assassinio di Abdurakhmanov, i contorni sono ancora molto incerti, quindi sì, diciamo, non è serio dare giudizi affrettati, no, su un fatto che ha dei contorni ancora molto oscuri. Io direi una cosa in primis: differenze ad esempio tra l'uccisione, il tentato assassinio di Abdurakhmanov e l'assassinio di Kangoshvili che avete citato, quello di agosto a Berlino. Allora, innanzitutto una differenza: Kangoshvili aveva un passato da militare, aveva partecipato alla seconda guerra cecena con quella che veniva definita la Repubblica di Ichkeria, cioè la Repubblica nazionalista antirussa che fu creata per combattere la Russia nelle due guerre cecene. Sì. Mentre quest'ultimo, Abdurakhmanov, che ha scampata, era un dissidente, quindi un blogger, un critico del regime ceceno. Importante da dire che era un dissidente molto in vista, perché aveva oltre 140.000 iscritti su YouTube. Sì. Adesso non so gli altri social, che non mi intendo di queste, sì, cose, però su YouTube aveva 140.000 iscritti, quindi era un dissidente in vista, un dissidente importante, molto seguito. Kangoshvili, ad esempio, invece era un militare, come ho detto, e aveva partecipato a attentati anche nel Caucaso. Era, sì, considerato da Mosca un terrorista, cioè proprio a livello, sì, diciamo, ufficiale. Sì. Tra l'altro, in queste cose cecene bisogna sempre tenere conto della struttura clanica del paese, perché la Cecenia ha una struttura tribale clanica che è appunto identificata in quelli che vengono chiamati teip, che sono dei clan o famiglie, o strutture appunto tribali, e in questa società vigono particolari regole come i delitti d'onore, la poligamia, l'endogamia, anche per parlare diciamo più ampiamente sul fronte diciamo sociale e valoriale, sì. E che tutte questioni che ovviamente non combaciano con la visione dei diritti umani nella prospettiva occidentale, certo. Ma che non possono essere spiegati tramite una lente esclusivamente eurocentrica. Certo. Con questo ovviamente non si vuole dire che in qualche modo si possano giustificare gli attentati, ma possono anche rientrare in faide intraclaniche. Ovviamente qui c'è un clan al potere, che è quello di Kadyrov, che ha preso il potere dal 2001 dal padre. E poi dal padre, che poi fu ucciso nel 2004 in un attentato molto scenico allo stadio di Grozny, e sì. Poi dal 2000, poi dopo, è stato scelto Ramzan Kadyrov, questo leader eccentrico, ma in stretti rapporti con Vladimir Putin, che, piaccia o no, voglio dire, per quanto riguarda diciamo prospettiva russa, è riuscito a portare una qualche stabilità in Cecenia. Ovvio che a questo si è affiancata una un'ombra sui diritti umani, sì. Sull'abuso, su vari fronti dell'abuso dei diritti umani, sì. In Cecenia, però per la Russia la Cecenia oggi è importantissima. Cioè, quindi, ecco, Giorgio Zella, sembra farle eco un ascoltatore al 349-238-6666 che va a toccare immediatamente il tema economico. La Russia ha investito miliardi di dollari in Cecenia per ricostruire l'economia del paese, fa riferimento alle due guerre cecene evidentemente, e sedare la dissidenza, compresa una raffineria costantemente in perdita. Questo io no, francamente non glielo so dire, non sono esperto dell'area. Ma la domanda, allora, abbiamo inteso due cose innanzitutto. Da un lato che questi omicidi sparsi in giro per l'Europa da ormai almeno 10 anni vanno a colpire, da un lato, quella che era la resistenza militare di una volta, certo. Quella cecenia che si fronteggiava a muso duro con Mosca, dall'altro invece è diciamo la fase 2, la fase storicamente posteriore di una Cecenia che vede il suo premier, il suo leader molto vicino a Putin, e tollera in maniera piuttosto maltollera quella che è la dissidenza o la critica. A ciò, e qua ci apre uno scenario, Giorgio Cella, molto interessante, attenzione, perché dice aggiungiamo complessità, non c'è solo questo braccio di ferro, c'è anche la logica clanica che vediamo in tante zone del mondo, ma qui sembra essere particolarmente forte. Quando intendiamo, quando parliamo di clan, in Cecenia stiamo parlando di tribù, quindi di famiglie allargate, no? È una base familiare, sì, che esatto. si estende si nel tempo. Si possono definire come tribù familiari, ce ne sono all'incirca 150 in Cecenia, e quindi ogni torto lì viene diciamo visto nella logica clanica, sì. E viene risposto a qualsiasi torto nella logica clanica. Chiarissimo. La voce, ecco, che sentite è quella di Giorgio Cella, che è ricercatore all'Università Cattolica, esperto di quella che una volta era l'Unione Sovietica, del suo dissolvimento e del frastagliato mosaico che adesso la comunità internazionale si trova di fronte. Poi lo potete leggere sull'IMES, ed è analista per la NATO Foundation. Tra poco darò voce anche all'ascoltatore al 349-238-6666, però con lei, Cella, volevo toccare un altro punto. La dissidenza cecena, in particolare questo blog da 100,000+ click su YouTube, quello che, se fosse confermato, ha anche, come dire, delle doti da James Bond in fuga notevoli, perché è riuscito a salvarsi da un omicidio, è riuscito a fare un video con il potenziale omicida a terra, insomma, dal punto di vista scenico, filmico, uno sceneggiatore non avrebbe potuto far di meglio, quindi mettiamo qualche puntino di domanda. Ma detto ciò, blogger come questi, dissidenti come questi, hanno la forza di far vacillare Kadyrov, perché dovrebbe inseguirli in mezzo a Europa? Allora, due cose importanti. Innanzitutto, studi sulla diaspora cecena in Europa e sulla visione, diciamo, globale è abbastanza, non ci sono ancora, non ci sono dei riferimenti chiarissimi sulla posizione generale della diaspora cecena in Europa, sì. E poi non è solo in Europa la diaspora cecena. Cioè in Medio Oriente, in Giordania, sì, in Turchia, certo. Quindi l'obiettivo primario, diciamo, dal punto di vista russo e ceceno, è quello di far impedire che i vari fronti dissidenti della diaspora si uniscano facciano crescere l'attenzione dell'opinione pubblica sulle questioni interne alla Cecenia. E su questo quindi evidentemente ci sono pressioni più forti su quei dissidenti che hanno più visibilità. Chiarissimo. La Cecenia oggi è fondamentale per la Russia da un punto di vista proprio securitario, di security. E qua veniamo, Giorgio Cella, chiedo scusa, interrompo, così chiudiamo poi questa pagina con un ultimo tassello che non è poi tanto tassello. La presenza di gruppi jihadisti legati ad Al-Qaeda e a ISIS, c'è un nutrito gruppo di ceceni che hanno combattuto, si sono fatti le ossa e magari sono tornati in Cecenia dopo appunto aver combattuto in Siria. Quanto è emergenza e quanto è una leva politica che Kadyrov può usare e Putin possono usare dicendo attenzione, qua bisogna pestar duro perché il pericolo jihad è imminente, scusi l'espressione allora, un po' prosaica. No, ecco. Ci mancherebbe. Dal punto di vista, russo c'è una priorità di sicurezza nell'impedire il ritorno dei jihadisti del Caucaso dalla Siria. Sì. Questo, voglio dire, mi sembra chiaro. Sì. Molti, c'è stato un gruppo folto di combattenti caucasici che non vuol dire esclusivamente ceceni, ma magari anche ingusci o daghestani o kabardini che si sono recati in Siria per combattere contro il regime di Al-Assad e che poi Kadyrov ha, diciamo, mandato i suoi stessi ceceni a combattere in Siria, quindi una guerra intracecena. No, come si era già vista anche in Ucraina, nel teatro ucraino. Sì. Questo ovviamente è una preoccupazione chiara per Mosca e per Grozny. Impedire il rientro, il ritorno, il flusso di jihadisti dalla Siria ad oggi non sembra esserci stato questo pericolo perché le frontiere della Cecenia sono controllatissime sia dall'FSB sia dalle forze di sicurezza locali della Cecenia. Però comunque che Kadyrov possa strumentalizzare con lo spauracchio dei jihadisti di ritorno anche la pressione sulla diaspora europea o medio orientale, questo ovviamente è un qualcosa che può sussistere, però se vediamo l'uccisione di Kangoshvili, Kangoshvili era un ceceno di derivazione Kist, cioè sono un'etnia che abita nella valle del Panchisi, che è una valle che sta tra Georgia e Cecenia e che ai tempi della guerra e delle guerre in Cecenia aveva esportato alcuni vari guerriglieri di ispirazione islamica in Cecenia. Non mi risulta che Kangoshvili abbia partecipato nelle guerre siriane, era più un qualcosa legato prettamente alle storie interne, diciamo, russo-cecene. E mentre per quanto riguarda la diaspora, ovviamente c'è anche lì evidentemente una potenzialità di rischio in termini jihadisti. Certo, è chiarissimo. Può essere strumentalizzata da parte di Kadyrov. Chiarissima la tesi di Giorgio Cella, un po' meno chiara invece quanto sia reale emergenza questa presenza jihadista. Ne approfitto per ringraziare appunto Giorgio Cella, analista per la NATO Foundation, ricercatore alla Cattolica. Buona giornata e buon lavoro, Cella. Alla prossima. Arrivederci. Allora, tra pochissimo leggo i vostri messaggi. Prima l'informazione finanziaria, poi la seconda pagina di Nessun Luogo. Nessun luogo. Nessun luogo è lontano. Ancora ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. In questa prima lunga pagina di Nessun luogo è lontano vi stiamo raccontando le vicende di quella che è una diaspora cecena. Da un lato ci sono i combattenti veri e propri, quelli che nel due guerre cecene hanno fronteggiato a muso duro Mosca. Dall'altra parte vi sono semplici oppositori politici che, come nel caso dell'ultimo blogger che ha postato quel video incredibile sui social, Tumso Abdurakhmanov, se fosse confermato è sopravvissuto a un attacco, a un tentativo di omicidio omicidio con un martello. Le immagini sono estremamente drammatiche. Prima pagina che però ha anche dei risvolti politici, e con Giorgio Cella dell'Università Cattolica di Milano abbiamo provato ad esplorarli, aggiungendo complessità a quella che è già una zona ipercomplessa, il Caucaso. I vostri messaggi al 349-238-6666. La Cecenia a carta bianca perché il Caucaso è troppo importante per la Russia, non solo per la minaccia islamica, ma anche per impedire ai georgiani di avvicinarsi troppo agli americani. In caso contrario, così dice un ascoltatore, si aprirebbe una breccia nel ventre molle russo, grave come se il Belgio fosse entrato nel patto di Varsavia durante la guerra fredda. È piuttosto iconica questa metafora, questa anzi similitudine che utilizza un nostro ascoltatore. Poi c'è un altro messaggio da parte di Vincenzo Mohammed che dice: dimenticate di dire, lo dico da musulmano italiano aderente a una confraternita sufi, che Ramzan Kadyrov è un sufi che combatte per l'onore dell'Islam contro i tagliagole jihadisti. L'Occidente dovrebbe saperlo che noi siamo comunque bersagli di questi criminali e i primi a combatterli. Ma se ci sono questi killer russi che attraversano l'Europa per regolare vecchi conti, mi chiedevo se, mutatis mutandis, vi siano anche i rispettivi killer americani che girano il Sud America o il Medio Oriente. Beh, direi che più che killer o sono corpi speciali dei Navy SEAL, per esempio, oppure agenti a tutti gli effetti. Gli americani nella storia ci hanno insegnato come si possono fare operazioni straordinarie anche in territori terzi. Diciamo che queste operazioni, diciamo, di fabbricazione, origine russa, filorussa, hanno fatto piuttosto rumore. Io ripeto, sono rimasto esterrefatto ad agosto quando in pieno giorno nel cuore dell'Europa è avvenuto un omicidio a sangue freddo, due colpi di pistola. È vero che era un combattente e tutto quello che volete, ma questa è a tutti gli effetti un'esecuzione extragiudiziale in un paese dell'Unione Europea e territorio terzo rispetto alle parti contendenti. Detto ciò, Valeria Bernardi, adesso bisogna prepararci, scaldarci un attimo, un po' di saltelli, un po' di corda, infilare i guantini, non i guantoni, quella dei MMA, hanno le dita libere e il paradenti, importante, e fare che cosa? Combattere, salire sul ring. From Jordan! Valeria Bernardi mi ha guardato malissimo perché non conosce l'MMA, Mixed Martial Arts, è una disciplina sportiva, uno sport da combattimento che combina in maniera anche piuttosto violenta quelle che sono varie pratiche marziali. Si tira di box, si danno i calci come nella Muay Thai o nella kickbox appunto, molti combattenti arrivano dal karate, ma poi ci sono tutte le prese a terra. Immaginate una disciplina che va a pescare dal Brazilian Jiu-Jitsu, dal Judo, molto spettacolare, molto violenta, ma allo stesso tempo c'è anche un grandissimo rispetto da parte dei combattenti sul ring. Ci sono tutti gli ingredienti perfetti per realizzare che cosa? Un documentario. È quello che ha fatto Matthew Cassell, che è un filmmaker, un documentarista molto bravo, io lo seguo ormai da anni, era un ex filmmaker e producer per Al Jazeera, si è occupato di Medio Oriente. L'ultimo suo lavoro è su un MMA fighter, cioè un combattente di questa disciplina, che si chiama Abdul Karim Al-Selwadi. I suoi fan lo chiamano l'orgoglio della Palestina. Lui in realtà sta a Dallas, combatte in Texas, è diventato campione del mondo, ma il suo paradenti reca l'immagine, l'effigie della bandiera palestinese ed è osannato ovviamente dai palestinesi. Ma come è iniziato questo strano progetto di documentario che va a mischiare uno sport non esattamente conosciuto dalla maggior parte del pubblico con una questione scottante, quella israelo-palestinese? Sentite Matthew Cassell che cosa ci dice. So BBC Arabic, who published the video, they commissioned. Il canale in arabo di BBC, che trasmetterà questo documentario, mi ha offerto di raccontare questa storia. La MMA, arti marziali miste, è uno degli sport che stanno diventando sempre più diffusi a livello mondiale. E uno dei produttori della BBC ha individuato questo personaggio, che si fa chiamare Orgoglio della Palestina. Così abbiamo discusso su come raccontare la sua storia, che è allo stesso tempo la storia di che cosa significa essere palestinese e musulmano negli Stati Uniti e che cosa significa essere un atleta di arti marziali miste. An up and coming mixed martial arts fighter. La storia di Abdul Karim al-Selwadi è piuttosto talentuosa e forte, pesi leggeri, campione del mondo, tira molto bene di box, ma è anche molto bravo nella lotta a terra e si è prestato davanti alla telecamera di Matthew Cassell, documentarista americano, per raccontare che cosa? Una storia che oscilla tra lo sport e la dimensione politica. Proprio a Cassell abbiamo chiesto quanto la dimensione politica possa entrare in uno sport così, così tosto e a volte che fa, è il caso di dirlo, scorrere sangue. Sentite Cassell. My work is always very political, you know, but il mio lavoro è sempre molto politico, ma è anche un tipo di lavoro che nel linguaggio documentaristico viene detto character driven, ossia basato sul personaggio, sulle persone che andrò a raccontare. Quindi quello che queste persone si sentono a proprio agio di mostrare davanti alla telecamera è totalmente lasciato alla loro volontà. Detto questo, Abdul Karim, il protagonista del documentario, è molto fiero, molto appassionato nel rivendicare la sua identità e le sue origini palestinesi, come mostra il suo soprannome nell'ambiente delle arti marziali miste, Pride of Palestine, ossia l'orgoglio della Palestina. È un tema del quale discute spesso e racconta che cosa lo rende così orgoglioso. Ora, alcune persone sarebbero state più politiche e da parte mia posso solo congetturare sul perché lui non abbia inteso entrare più nello specifico su temi come la questione israelo-palestinese, l'occupazione, eccetera. Suppongo che quando sei un atleta, tu debba stare molto attento a non essere offensivo, specialmente su una questione così controversa. Tuttavia, una parte del film si sarebbe dovuta svolgere in Palestina. E anche se non voglio rovinare il finale e raccontare troppo, vi basti sapere che a un certo punto succedono una serie di cose che ci impediscono di arrivare in Palestina. Quindi non è stato possibile raccontare la sua famiglia, i suoi amici, le zone occupate, eccetera. Nel documentario Abdul Karim spiega anche come lui personalmente non viva a quel modo, di come sia rendere la gente orgogliosa, ma allo stesso tempo vivere una vita molto privilegiata negli Stati Uniti, lontano dall'occupazione. Insomma, penso che in tutta la storia ci sia un elemento politico, anche se non è la caratteristica principale del documentario. Matthew Cassell, la sua voce, The Pride of Palestine, questo documentario girato per la BBC nel servizio arabo. Leggo solo un messaggio prima di lasciare spazio alla viabilità, molto interessante. Un ascoltatore scrive: lo sport, soprattutto quello violento, come forma di riscatto e sdoganamento identitario. Beh, se ci pensiamo, soprattutto la box, la nobile arte del pugilato, da sempre è diventato un topos quasi letterario, no? La box è quella che fa salva i ragazzini dalla strada ed è una disciplina che ovviamente si è raccontata anche in contesti più estremi, in contesti in cui magari c'è conflitto, beh, come dire, diventa un grande archetipo a tutti gli effetti. Si sale sul ring. Ho avuto occasione, per esempio, di seguire pugili cattolici e protestanti che in una Belfast funestata da quel conflitto, beh, salivano sul ring e si menavano col sorriso sulle labbra, ma erano amici fino alla fine. Quindi sì, sono abbastanza d'accordo con l'osservazione dell'ascoltatore sull'identità. Forse dovremmo dedicare più e più puntate. Detto ciò, piccola pausa sulle strade italiane e poi rimanete lì, l'intervista al presidente del Parlamento libico. Nessun luogo è lontano. Le sonorità con Valeria Bernardi, la terza pagina di Nessun Luogo Lontano, ci suggeriscono che cosa? Che è il momento di voltar pagina e di andare in Libia. Perché? Perché il neo eletto presidente del Parlamento libico, Ahmed Ahmed Siala, ha accettato di chiacchierare con noi. Una lunga intervista in cui tocca un po' di punti, non vi anticipo tantissimo. Vi faccio sentire immediatamente la sua voce, perché la prima domanda che le abbiamo fatto evidentemente parte da quel blocco delle postazioni petrolifere che è stato escogitato e attuato dal generale Haftar, che sta semplicemente mettendo in ginocchio l'economia libica. Seguiamo questo dossier da parecchio tempo, lo sapete, Per il momento le perdite sono stimate in 2 miliardi di dollari e la produzione di barili è di 120.000 al giorno. Siamo lontanissimi dai tempi più floridi, siamo a livello sostanzialmente della guerra, della primavera araba con la caduta di Gheddafi. Sentite come il presidente Siala descrive questa situazione e utilizza in particolare un aggettivo. Ovviamente è molto pericoloso. You know, the oil sector is the main core of the income of the Libyans. Sicuramente è una situazione molto pericolosa. Il settore petrolifero rappresenta la principale entrata dei libici e il generale Haftar sta cercando di sfruttare questa tematica sul fronte politico e sta cercando di convincere il mondo che tutto il settore petrolifero si trova sotto il suo controllo. Come hanno detto molti esperti, la situazione economica in Libia potrebbe peggiorare nei prossimi mesi. Lo ha detto anche il presidente Sarraj. La voce di Ahmuda Ahmed Siala, neoeletto presidente del Parlamento libico. È utile ricapitolare brevemente la situazione. Tripoli è quasi accerchiata dalle forze del generale Haftar, sostenute da Egitto e da Russia, mercenari e Emirati Arabi Uniti, soprattutto aviazione. Tripoli, che ha un governo riconosciuto dalla comunità internazionale e dalle Nazioni Unite, vive soprattutto della stampella, del supporto dei militari turchi e dei siriani che hanno combattuto sul fronte turco appunto in Siria e spediti a suon di dollari e dollari al mese a combattere anche in Libia. In tutto ciò i colloqui di Ginevra stentano, molto spesso sono bucati diciamo dalle parti che non si presentano e in questo momento di impasse internazionale chi detta la legge è sostanzialmente Haftar, che continua ad alitare sul fragile governo di Tripoli. Abbiamo parlato di blocco del petrolio. C'è un impatto sulla vita quotidiana di Tripoli, la popolazione ne soffre. Sentite il presidente Siala. Al momento no, ma non posso dire che non ci sarà un impatto sulla vita quotidiana delle persone nel lungo periodo. Al momento non posso dir nulla a riguardo, grazie alla gestione finanziaria della Banca Centrale Libica. Ma se il blocco dei porti e della produzione di petrolio dovesse continuare, molto probabilmente questo avrà un impatto sulla vita quotidiana delle persone. La voce di Ahmuda Ahmed Siala è il nipote del ministro degli esteri Mohammed Siala, che noi stessi abbiamo avuto a questi microfoni qualche tempo fa, clan, famiglia piuttosto potente a Tripoli. Parlando dell'intervento straniero, sottolineavo la presenza turca che offre sostegno a Tripoli e sta sostanzialmente impedendo ad Haftar di rompere gli argini. Qual è l'aiuto, qual è l'impatto secondo il politico libico? Sentite. L'intervento turco è molto recente, non era un intervento così diretto nel passato. A causa di questa situazione, il governo di accordo nazionale è stato costretto a cercare un alleato che proteggesse il governo legittimo e la capitale, perché abbiamo visto che tutta la comunità internazionale è rimasta a guardare, mentre il generale Haftar per 10 mesi bombardava civili e commetteva crimini contro l'umanità. Il mondo stava solo a guardare, senza intervenire nella situazione, senza impedire questi crimini. C'è una situazione umanitaria critica, abbiamo moltissimi rifugiati. Questo atteggiamento da parte della comunità internazionale ha costretto il governo di accordo nazionale a cercare un alleato che potesse aiutare in questa situazione critica. Abbiamo cercato di trovare alleati per difendere la capitale, per difendere noi stessi. Le accorate parole del presidente del Parlamento libico Mohammed Siala. Ma allora sbagliamo se diciamo che la Libia ha chiesto aiuto alla Turchia perché gli altri paesi europei non vi hanno aiutato, sentite? Certo, è così. E questa cosa riguarderebbe anche l'Italia, abbiamo chiesto? Non sono sicuro di questo. Questo sarebbe in realtà compito del governo di accordo nazionale, ma tutta la comunità internazionale ha dichiarato che il governo di accordo nazionale è il governo legittimo. Ci sono molte questioni complicate in Libia e non ci sono soluzioni perfette. Abbiamo cercato di raggiungere un accordo di pace fra tutte le parti. Abbiamo cercato di fare del nostro meglio in molti casi, ma il generale Haftar ha un'altra idea. Molti paesi lo sostengono in questa sua visione, mentre altri paesi, come l'Italia, stanno cercando di partecipare, anche se in maniera minore, alla soluzione del problema e nel fare pressione sulle parti per raggiungere un accordo. Quindi, sulla base di questo atteggiamento di molti paesi, il GNA ha deciso di cercare altri alleati che possano resistere al generale Haftar, a quest'uomo folle. La voce di Ahmed Siala, il neoeletto presidente del Parlamento libico, che sostanzialmente si lamenta dell'assenza dell'Occidente, dice: è stato a guardare, poi abbiamo chiesto alla Turchia e immediatamente hanno mandato uomini consentendo a Tripoli di sopravvivere. Siamo quasi in chiusura, allora io proporrei di far sentire l'ultima battuta del neopresidente libico, perché forse è passata inosservata, ma recentemente, in particolare 2 giorni fa, c'è stata un'agenzia che riportava una dichiarazione del ministro degli interni libico Bishaga, che ha dichiarato che auspicherebbe un intervento statunitense, nel senso che lui ha detto: attenzione, Tripoli è pronta ad ospitare una base americana. Abbiamo chiesto conferma al presidente del Parlamento libico, sentite. Well, actually, I don't have any solid information about this. I have heard this in the media. Non ho informazioni a riguardo. Quello che so lo leggo dai media. So che gli Stati Uniti hanno cercato di aiutarci dal punto di vista della sicurezza, ma riguardo a un coinvolgimento di questo tipo degli Stati Uniti non ho notizia alcuna. La voce di Ahmed Siala, in esclusiva qui nel suo luogo lontano, il nuovo presidente del Parlamento libico di Tripoli. La sostanza che si evince da questa chiacchierata è realpolitik, pragmatismo. Tripoli poteva soccombere di fronte all'aggressività di Haftar e degli stati che lo sostengono, dalla Russia agli Emirati Arabi Uniti, e l'unico che ha risposto è stata la Turchia. Vi ricordate quell'accordo sullo sfruttamento marittimo, su quel lungo braccio di mare? Ecco, in buona sostanza Siala ci ha anche detto che è in maniera anche abbastanza chiara che quello è l'oggetto di pagamento, l'aiuto militare turco in cambio del divisione dello sfruttamento delle risorse del Mediterraneo. E quindi in ultima istanza la domanda resta sempre quella: l'Europa sta a guardare mentre la Turchia diventa sempre più egemonica e importante? Gli ultimi messaggi, poi chiudiamo. È stato mille volte rimarcato come il governo ufficialmente riconosciuto dall'ONU sia stato abbandonato, permettendo ad Haftar di fare legittimamente, e credo che sia ironico, il brutto e il cattivo tempo. Questi messaggi al 349-238-6666, spulciando dei messaggi, peccato, non trovo una parola sola, ma me la dirà Valeria Bernardi. Il consueto preludio ai titoli di coda e ringraziamenti a voi che siete stati all'ascolto, a tutta la squadra di Nessun Luogo. L'appuntamento è per domani, ore 16. Intanto un saluto da Giampaolo Musumeci.